on a flat car, got the burned out the caboose. Get them all jacked up on whiskey, then we turn the mad dog loose. Hang on St. Christopher on the passenger side. Open it up and not the devil can ride, yeah. Oh yeah. Aloha! Buongiorno e ben ritrovati. Questo è l'Early Bird Special. Questa è la prima colazione che viene servita tutte le mattine dalle 6 alle 7 dalle frequenze di Rock FM. Anche il mercoledì, giro di boa questa volta. La settimana comincia ad andare in discesa, finalmente verso il weekend rock and roll che ci aspetta. Io sono Chuck Bird e questa è la grande musica che potete ascoltare nell'etere. Etere o non etere, questo è il problema. Il peggio deve essere passato, ma per rendervi meno duro il risveglio vi faccio dare un bacetto da quella eterna sgallettona di Chrissy Hynde. Coi Pretenders, Back on the Chain Gang. Back on the Chain Gang, rispediti ai lavori forzati. A proposito di carcere e carcerati, al bar di Fred si parlava di una notizia apparsa su un quotidiano. Sapete, quelle notizie piccole nascoste che solo la vera mosca da bar, il cliente che staziona i tavolini praticamente 24 ore su 24, legge. La notizia riguardava l'ente americano per il rispetto della legge che ha speso $27,000 per finanziare uno studio incentrato sui motivi che inducono i galeotti a scappare di prigione. E invece vi offro gratis un buon motivo per rimanere all'Early Bird Special, la grande musica, Bad Company. Something I need. Now tell me I got something for you. slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing out my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm energy farming way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Watching shadows move across the wall, feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart over you. You'll always be my. Early Bear Special, gli ingredienti perfetti per la perfetta colazione del rock and roller. Buona musica e qualche chiacchiera. Ho una bella storia, una storia piuttosto interessante, sulle proprietà immobiliari di Jimmy Page dei Led Zeppelin. Ve la racconto, ma dopo Warren Zevon. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. With the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect. Werewolves of London, e da Londra alla Scozia, sul lago di Ness, per la precisione, dove Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, comprò nel 1970 la Boleskine House. L'antica casa era stata costruita su un terreno dove precedentemente sorgeva una chiesa che era stata distrutta da un incendio mentre i fedeli erano intrappolati al suo interno. Nella casa fu anche decapitato un uomo e, secondo una leggenda locale, si poteva ogni tanto sentire ancora la testa che rotolava sul pavimento. Qui si trasferì anche Aleister Crowley, il famoso stregone inglese che cercò di richiamare in vita proprio in questa casa demoni e divinità antiche. La conseguenza di tutti quei riti fu che il guardiano della casa impazzì cercando di sterminare la sua famiglia. Come se non bastasse, la Boleskine House fu anche sede di una falsa società di insaccati, i cui proprietari truffarono moltissimi allevatori locali. Non c'è proprio da stupirsi se tutti coloro che vivevano intorno a Loch Ness ritenevano che il posto fosse maledetto. Ma Jimmy Page, alla ricerca di una residenza di campagna, lo trovò perfetto. Chissà se Jimmy Page sentì la testa rotolare. Non credo, col volume con cui suonava non avrebbe sentito neppure rollare il tetto. Led Zeppelin, All'Early Bird Special, Good Time, Bad Times. Yeah, solo il meglio per voi passerottini e passerottine che per primi sbattete la luce e strabuzzate gli occhi, perché questo è l'Early Bird Special, noi vi trattiamo realmente coi guanti di velluto. Io sono Chuck Bird e loro sono i Police, Synchronized AI. And frustration, but we don't all In perfetto sincronismo sfumano i Police e arriva la Dolce Cherie, perché a quest'ora del mattino il vecchio Chuck Bird si fa la sua tazza di caffè nero bollente. Mercy, Cherie. Welcome to the jungle, benvenuti nella giungla, benvenuti all'Early Bird Special, seconda e ultima parte, dopo di me ci sarà pane e burro rock and roll con i DJ Ariele Freak Anthony, ma non corriamo perché c'è ancora un sacco di cose da dire e un sacco di musica da ascoltare. Che vita meravigliosa, quella dell'ascoltatore di Rock FM, What a Life, George Harrison. La musica, per quelli come me, è quella incisa nei dischi. Non sono file di byte in un programma di computer, ma solchi incisi in sottili dischi di vinile. Ammettiamoli, quello dei dischi è tutto un altro mondo, un mondo ricco di cosucce strane ed interessanti. Per esempio, sapete che la versione più costosa in assoluto del più venduto singolo dei Queen, Bohemian Rhapsody, è stata pubblicata nel 1978? No? Beh, se ve lo dico io potete crederci. Dunque, in occasione del Queen's Award to Industry for Export Achievement, che è un premio dato alle compagnie che durante l'anno avevano maggiormente contribuito a rendere importanti le esportazioni di prodotti inglesi all'estero, la EMI inviò a 200 ospiti uno speciale invito. Era un pacchetto che conteneva una copia di una versione in vinile colorato del singolo dei Queen, in una confezione che comprendeva una coppia di bicchieri con la scritta EMI e una sciarpa viola. Anche il vinile doveva essere viola, ma un errore nella comunicazione fece sì che il vinile fosse blu. Beh, se vi dovesse capitare a tiro, questo singolo vale non meno di 2.500 sterline, più di 3.700 euro. Se poi insieme al disco ci trovate anche i bicchieri e la sciarpa, la quotazione aumenta di 1.000 sterline. Considerando che un singolo ha un diametro di 7 pollici, questo vuol dire che questo singolo vale 500 sterline a pollice, che al cambio sarebbero 750 euro ogni 2,5 cm. Eccoli qui, Queen, con il loro costosissimo Bohemian Rhapsody. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against. Trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me! Tranquilli, questa Bohemian Rhapsody non è la versione in vinile blu. L'avremmo tenuta in cassaforte e non trasmessa per radio. Ragazzi, volete entrare in contatto con il vecchio Chuck Bird? Fatelo digitando sulla vostra tastierina bird@radiorockfm.com. Raccontatemi le vostre storie di rock and roll, i vostri dischi preferiti, insomma, comunicatemi qualche cosa. Ci tengo veramente moltissimo. E siccome tengo moltissimo che la vostra mattinata sia sempre la migliore in circolazione, eccovi Kiss, il loro singolo di più grande successo, Beth. Thank you. Passerottini e passerottine, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto, ma vi lascio in buone mani con Ariel e Freak Anthony, loro pane, burro e rock and roll. Da Chuck Bird è tutto, vi aspetto domani mattina puntuali dalle 6 alle 7 con Early Bird Special. Aloha!